Siamo in collegamento telefonico con Pippo Del Bono, regista del film Vangelo, che sarà presentato oggi, lunedì 19 marzo, al Teatro Argentina. Pippo, ben ritrovato. Ciao, ciao, ciao. Allora, per chi ci ascolta, come lo racconteresti, come lo descriveresti il tuo film? Il mio film è un viaggio dentro un'esperienza che ho fatto direttamente. Sono stato in un campo rifugiati ad Asti, in un centro di accoglienza, prima accoglienza, e sono stato lì all'inizio, devo dire, ci sono stato un po' anche senza bene sapere perché, forse quasi quasi ero quasi più io che cercavo qualcosa, un luogo dove stare comunque per dove star bene. Io ero un momento un po', diciamo, che stavo lottando un po' per un problema di salute, non poco, con gli occhi che vedevano doppio. E quindi in quel posto in qualche modo io mi trovavo in mezzo della gente che mi, boh, se non altro avevano un rapporto con la soffrenza, non so, mi sentivo più bene lì che, diciamo, in un fuori un po' più banale, estivo, non c'avevo voglia. E da lì poi nasce questa cosa, un po' di voglia anche di pensare a un film, però non sapevo, loro avevano grandi problemi con la camera. E quindi però alla fine, passando verso il tempo lì, poi è venuto fuori questa possibilità, ho pensato perché non fare il Vangelo. Tanto il Vangelo stavo già facendo come spettacolo, indipendentemente da quello, potrei provare questo cammino. E quindi l'ho proposto semplicemente come un lavoro di un po' di giorni, nemmeno poi tantissimi, però giorni molto concentrati. Senza entrare in una pseudo voglia di documentare, di fare un film documentario su una condizione. Non mi sentivo assolutamente in grado di essere nessuno in quel momento che dovesse dire qualcosa a proposito di. E sono stato lì, cioè, quindi abbiamo iniziato a fare queste serate, sono delle notti un po' grottoschiane, quasi di rito, dove poi sono venuti fuori i momenti più forti, credo, del film, proprio in quelle notti passate dove io. Una piccolissima troupe, eravamo proprio io, Fabrice, piccoli camere, poco a poco siamo rimasti veramente io, Fabrice, Pepe e Bobò, e siamo rimasti con loro, e alla fine è venuto fuori questo film che è quasi un po' un'idea di fare un viaggio verso il Vangelo. Il Vangelo non è fatto il Vangelo, però del Vangelo ci sono quei momenti secondo me più importanti in questo tempo che ci stiamo dimenticando troppo. Questo paese, penso a Roma, ogni angolo c'è una chiesa, ma allora scusate, io sono buddista e quindi ho scelto un altro cammino, che però sono cammini, nel senso di cini. Allora mi sembrava che le parole del Cristo paradossalmente erano quelle più giuste e perfette in questo momento in cui tutti si dichiarano cattolici, cristiani, però in verità paurosi tutti dell'altro. Allora quando Cristo dice avevo fame, mi avete dato da mangiare, non siete mai dato da bere. Ero ignudo, mi avete vestito, ero esiliato e mi avete accolto, punto. E poi che sia ogni modo da trovare, possiamo discutere, non è ideologia, è umanità. L'umanità è alla base di qualsiasi pensiero. Poi si può anche decidere qualsiasi pensiero politico, di tenerli là, di farli lavorare là, non so, io non sono capace di farlo. Però il discorso umano, soprattutto per quelli che si vogliono sentire o cattolici o spirituali, artisti, quello non si può mai dimenticare. No. Ecco, quel film lì è un film che fa vedere l'umanità, non è un film che dice niente in quello, fa vedere un incontro, fa vedere i vivi, fa vedere soprattutto la straordinaria bellezza che hanno come attori, perché in fondo loro qui recitano dei ruoli, non sono loro stessi. Io non ho fatto un film documentario, infatti è un film, quasi una fiction. Se fiction vuol dire. Fai questo, adesso decidiamo cosa fare, no? Decidiamo una scena. Sembrava più bello, più giusto, più sano, che mettermi io a cercare. E lì loro hanno tirato fuori una capacità veramente che sono rimasto senza parole. Pippo, con quante persone hai interagito e sono entrate a far parte del tuo film? I rifugiati l'hanno una trentina. E come è nato tutto il progetto? Come ha avuto origine l'idea? Casualmente, La Film Commission di Torino l'abbiamo girata ad Asti, no, non mi hanno girato, ma non è colpa loro, perché, ma scusa, non ce l'hai nemmeno detto, io non sapevo, non so mai niente, io seguo le onde, onda radio, io seguo le onde, e quindi seguendo le onde, certe volte mi schianto contro gli scogli, però spesso trovi delle cose che, e allora la progettualità in un artista come me che segue le onde, si deve trovare dei produttori, dei distributori che ti seguono un po' al silenzio, capito? Senti, che impressioni e che esperienza hai vissuto? Che impressioni ne hai ricavato, insomma? Beh, io quando faccio un'esperienza ci vado così in fondo che mi cambia in parte la vita. E questa va cambiata in parte la vita, cioè ti cambia la vita nel senso che viene nel male. Mi scombussola degli elementi in cui anche lo stesso come artista hai messo sicuramente in discussione tantissime cose, ma non solo come artista, anche come persona. E quindi sicuramente c'è stato uno sconvolgimento, che non ho ancora ben capito dove mi porterà, ma certo sì, uno sconvolgimento. Perché quando le cose le vedi al 100% te le fai prendere, anche nel male, no? Cioè Sì. anche nel rischio, non nel male, nel rischio, no? Perdi la retorica del buonismo, di tutto quello, perché ti identifichi in una situazione, allora quella situazione diventa la tua vita. È sempre stato così nel lavoro, non sono capace a fare d'altro, poi con lo studio Bobò, entrato nella mia arte, Bobò vive a casa mia da 21 anni, non so come dire, né, capito? Sì. Cioè delle figure hanno cambiato profondamente, radicalmente il mio modo di vivere. Bobò vive con me e non è che faccio, ho trovato uno e quindi e questa volta è successo in altri modi, ma in qualche modo è un po' lo stesso tipo di cammino, no? Di aver fatto, a parte che alcune persone sono state un'unità di compagnia con me, lavoro in teatro e un altro abbiamo se fare il permesso di soggiorno, ma non ce l'ho ancora perché quello che fa il Cristo è illegale, perché non ce l'ha ancora per il stesso giorno di sicuro, perché non era ragione sufficiente per dare un permesso di soggiorno, quindi diventa un'esperienza che ti confronti anche con un mondo, con un paese, con una banalità, con un'arte, spesso è arte di intrattenimento, anche culturale. Diciamo che il mio spettacolo, soprattutto l'ultimo lavoro, La Gioia, che non è ancora finito però, l'ha presentata a Bologna e ho fatto due tappe, Bologna e Nuova Delhi, solo queste due. E non è stato male, andare a Nuova Delhi, sono tornato adesso a Nuova Delhi, è fortissima esperienza, in un teatro dove praticamente le persone erano analfabete. Sì, A sì. Nuova Delhi no, ci ho reso l'attito, ma in un'altra città che sono stato, persone, non mettiamo il l'attito, perché intanto loro non leggono. La maggior parte non capisco l'inglese, quindi io parlavo questo italiano e loro stavano lì. Bisogna andare profondamente in crisi per rinnovarsi, credo. Ma io lo sono totalmente in questo periodo, fedeli. Senti Pippo, rispetto allo spettacolo messo in scena, il Vangelo e questo film, in che rapporto stanno? In che rapporto li potresti mettere? Sono molto lontani, io nel film dico il Vangelo dei ricchi e il teatro, no? E, perché nel senso che noi nei teatri, poi ormai sono una compagnia grossa, il Vangelo bisogna sempre andare nei teatri enormi, e quindi ti confronti con la borghesia teatrale, ma sta borghesia, non so più cosa vuol dire questa parola, però comunque con un pubblico di un certo tipo, di livello culturale, chiamiamolo così. E quindi il teatro c'è la sua provocazione, il Vangelo c'è la sua provocazione del linguaggio teatrale molto forte. E nel cinema probabilmente c'è anche la provocazione del linguaggio, ma non, è meno importante per me in quel momento. Il teatro bisogna, la prima rivoluzione è cambiare il linguaggio, cambiare il rapporto tra quello che è pubblico, platea, quello che diceva Brecht in tempi di guerra. Noi non siamo in guerra, però comunque è un momento che c'è tanta guerra anche che non si vede in giro. Bisogna che il teatro riprenda sul valore anche verità. Ecco, allora Vangelo parte della verità del linguaggio ed è rappresentato da Antonio, però ci sono dei momenti del film che entrano dentro, però entrano in una maniera teatrale, però sì, ci sono dei momenti, frammenti del film. E nel film c'è un frammento, un paio di frammenti dello spettacolo che però entrano dentro in maniera cinematografica, perché il teatro non interessa riprendere un pezzo dello spettacolo, ho cercato dal teatro fare come si potrebbe dire una forma più quasi stile videoclip, Sì, no? sì, Con un ritmo da videoclip, sì. no? Sì. Perché sennò non è. Invece, paradossalmente, ci sono delle immagini, per esempio, di alcuni rifugiati che stavano dietro il campo, che nel teatro è molto più lunga che nel film, perché nel film non la teneva, stava, ci sono dei tempi, no? Ci stava a terrazzare fino a un tot, non di più. E invece poi a teatro, beh, è chiaro, ci sono io che dico nei testi, quella scena dura ancora di più, ancora. C'è sempre comunque sono luoghi molto diversi, però Sì. si possono incrociare i linguaggi. Pippo, dopo questa data romana, che tipo di visibilità avrà Vangelo? Guarda, questa è una domanda interessante, senso che ha comunque una forma distributiva a chiazze che però mi sembra che stia partendo abbastanza. Quindi c'è questa idea durante la settimana pasquale che venga presentata in diverse città italiane, no? Chi vuole proprio, magari anche all'inizio solo un paio di giorni, no? Sì. Decide di fare questa esperienza, poi da lì che si attacchino degli altri. C'è anche interessante il circuito delle sale cattoliche, diciamo, che non ricordo mai il nome, io. Comunque che l'hanno messo in questo film del sacco come apertura, l'hanno amato molto, e queste sale lo vorrebbero programmare. Allora penso che se il film potesse, come si immagina, entrare anche in quelle piccole sale parrocchiali, di piccoli paesini, secondo me alla fine fa un cammino Bene, completamente originale. bene. Sicuramente esce fuori dai circuiti distributivi, anche perché poi alla fine non ha funzionato. E sabato e domenica quanto è incassato, non ne voglio nemmeno sentire parlare. In questo momento della vita, meno che mai. Sì. Non voglio sentire più. Prima, guarda, io sono sempre stato un rompiballe, ma adesso lo sono sicuramente. Più cresco, più sono uno spaccapalle, soprattutto più queste belinate, così si rigore, belinate. Siamo qua che siamo su un filo della vita e stiamo ancora a vedere l'incasso del weekend. Ecco, però va. Sì. Questa prima l'Argentina, spero che venga tanta gente, perché come diamogli un lancio, un calcio in culo, che parta. Non tanto perché io non ho bisogno che mi dicano che è bravo, non interessa, però così fai vedere un altro modo di guardare questi visi. Questo per me è importante, perché Sì. queste persone portano un segno straordinario, Bene. nel senso che hanno negli loro occhi una capacità attoriale veramente rara. Bene. Allora ricordiamo l'appuntamento di quest'oggi con Vangelo di Pippo Del Bono al Teatro Argentina, Io lunedì sarò 19 lì. marzo alle ore 21. Pippo, Ok. allora ci si vede al Teatro Argentina. Un abbraccio, a risentirci presto.